Allora, benvenute, E benvenuti. tantissimi, tantissimi stasera, numerosi. Siamo emozionati dall'affiliazione che questa montagna analoga ha creato. Non ho mai visto un pienone così. Anch'io sono molto contento. Allora, questa sera ospite della Montagna Analoga, prima puntata del 2026, mentre Io. c'è Luke che praticamente si tocca i capelli come una diva, i ricci si sistema. Anch'io adesso sistemo un attimo. Sono pronto. Rocco Castellani. Sono io. Allora, amico, socio, fidato di Exalge, nonché fornitore di ottimi prodotti del gas. Questa sera, diciamo, l'idea era di portare una voce un po' diversa a Montagna Analoga. Fino ad adesso sono venuti ospiti, diciamo, appassionati alpinisti, mentre questa sera appunto abbiamo deciso di invitare Rocco perché, al contrario di questi appassionati che di fatto vivono però in città e quindi vivono la montagna più come un'esperienza di evasione dalla loro vita quotidiana, Rocco invece vive in montagna, vive a Lavina, in Liguria, e quindi ti chiederei di raccontarci un po' come è nata questa tua scelta di trasferirti dalla città alla montagna e quindi di fatto forse di darci una testimonianza più di cosa significa vivere in montagna e quindi non solo diciamo, approcciare la montagna come un luogo di evasione, di divertimento, ecco. Diciamo che tutto è partito un po' da proprio questo concetto di evasione, nel senso che capita a tanti in città, a Milano, di andare a fare weekend fuori e io ho visto però che proprio cambiavo dentro, uscendo fuori dal contesto cittadino. Stavo meglio sia psicologicamente che anche fisicamente e a una certa. Così, seguendo un po' l'istinto, è venuto abbastanza naturale, un passo dopo l'altro, non è stata una decisione che ha rotto quello che c'era prima per creare un nuovo contesto. È successo tutto gradualmente, mi sono trasferito, ho fatto la mia azienda in montagna. E lì ancora, per i primi anni, l'ho vissuta molto sempre come concetto di evasione, cioè ero lì perché non ero a Milano in qualche modo, no? Ero lì per ricaricare le batterie, ero lì per vivere magari anche una nuova avventura, però ero ancora dentro quel paradigma da cittadino. Invece adesso è cambiato tutto, cioè la montagna non è più la sfida del weekend, non è più, ma è una sfida costante, dal dover far la legna al mezzo agricolo che ti si rompe, lo devi aggiustare. L'altro giorno mi si è rotto I il Valentini. serbatoio del Valentini, No. allora ho fatto tutto il lavoro io, adesso è lì che si asciuga una parte sperando che di aver fatto Perché bene il effettivamente faccio un lavoro. inciso per chi ci segue oggi e ci ascolta. Esatto, il Valentini è un mezzo, non Un un mezzo Valentino. No, agricolo. beh, volevo anche dire che Il che appunto non solo. solo vivi in montagna, ma hai anche un'attività lavorativa, no? Sì, Un'azienda ho un'azienda agricola agricola, in per cui terra. esatto. Per cui la scelta anche di vivere in montagna immagino sia stata legata anche a una scelta proprio di vita anche lavorativa. Sì, diciamo che comunque sia la scelta di vita è una scelta lavorativa, a meno che vinci il Superenalotto, però poi comunque sia, cioè Ti lavoro stufi e a un lavoro, certo sì, punto. cioè la vita è lavoro in qualche modo, il lavoro è vita, per quello che è importante scegliere il lavoro giusto, fare proprio per questa. E diciamo che anche lì è stato molto graduale in verità, cioè nel senso ho proprio fatto. Non so, c'è cioè questo paragone della rana, del rospo che è immerso nell'acqua e accendi sotto il fuoco, lei non si accorge, no? Che bolle. Più o meno io uguale, cioè sono andato in montagna, però un passo alla volta, prima ho cominciato a starci una settimana, poi un mese di fila, poi pian piano facevo 6 mesi all'anno e adesso ci vivo quasi sempre. Anzi, faccio fatica a tornare a Milano. E tutto bello, però effettivamente ci sono le difficoltà, cioè non vado lì in vacanza, vivendo lì comunque sia devi vivere difficoltà, come ci sono le difficoltà in città. Il bello della montagna, però, è che hai un rapporto diverso con l'ambiente, nel senso che, per quanto mi riguarda, perlomeno a Milano non hai un posto dove stare veramente da solo, no? Anche se sei da solo in casa, bene o male, sei comunque circondato, hai vicini da tutti i lati, senti i suoni della città, non hai quel momento in cui puoi stare da solo, gli odori che senti sono completamente diversi, cioè a Milano io adesso mi accorgo che puzza, quando torno sento puzza ovunque, cioè di piscio, di cibo marcio, robe, non è bello. Risvegliate i vostri sensi. E poi alla vista, cioè senza comunque sia uscire e vedere tutto verde anche se hai problemi, perché i problemi sono intrinsechi alla vita, no? Sono un po'... Da quel punto di vista sono anche di una filosofia un po' pessimista, cioè anch'io nel senso non rispetto a voi ma rispetto a tante altre persone. E quindi la vita è sofferenza e dolore, però in montagna, in mezzo alla natura, è molto più sopportabile, no? C'è una finalità forse anche diversa, no? Cioè... Perché magari è più fisico e meno mentale, è più anche esplicito e meno nascosto, sotteso dalla realtà. Assolutamente, questo incide tantissimo. Un'altra cosa che secondo me incide tanto anche è come dicevi, la parte fisica non solo è più abbondante rispetto allo, diciamo, allo stress mentale, ma aiuta anche, perché poi quando hai lo stress fisico rilasci, cioè sei più felice comunque sia, no? Come quelli che vanno a correre, come quelli che vanno a fare alpinismo, eccetera. La fatica comunque sia è uno stress sano, è uno stress che fa Una bene al dimensione più corpo. umana, cioè nel senso non ci siamo ancora evoluti fisicamente a sopportare gli tipi di stress che ci siamo creati negli In ultimi città. magari 200 anni, invece siamo delle macchine apposta per gestire altri tipi di stress più Sì, naturali, tra virgolette. esatto, secondo me assolutamente sì, cioè io avevo fortissimo questa necessità di riscoprire la mia parte, diciamo, naturale, il mio essere bestia all'interno Che del... come d'altronde è lo sfondo della nostra locandina di oggi. Sì, esatto, e il mio essere cinghiale in qualche modo, no? A volte me lo dico con i miei amici lì, no? Che alla fine siamo dei cinghiali e ci piace, no? Esserlo a volte puzzolenti, a volte rudi, però Scavare comunque qualche sia, buco. esatto, però comunque sia in armonia in quel contesto naturale, no? E poi la montagna per me non è solo una parte, diciamo, mentale, fisica, ma anche una parte in qualche modo spirituale, cioè ho riscoperto tantissimo la connessione con l'universo, diciamo. Io non sono religioso, cioè non... però comunque sia ho una mia spiritualità che mi sono creata col tempo, anzi da quando ho accettato la mia parte spirituale, perché da bravo chirichetto alle elementari poi una certa ho chiuso totalmente con la religione e anche con la spiritualità, perché secondo me coincidevano. Invece, grazie alla montagna, ad alcune anche esperienze, diciamo, Introspettive. introspettive, extracorporee, extramentali, e al contesto della montagna, ho scoperto una spiritualità, no? Comunque sia. Quella sensazione che si ha, no, di sentirsi nel luogo giusto, al posto giusto, no? Che a volte si sente nei film, nelle cose, non è solo, cioè almeno per me non è il momento di trovare l'affare giusto, è proprio una sensazione in cui uno dovrebbe sentircisi sempre, È un bene o male, no? po' magari quello che si chiama più genericamente l'essere nel presente, Sì, cioè non assolutamente. avere tipo preoccupazioni date da passato e futuro e godersi lo stato attuale delle cose, essere in connessione più con quello che c'è ora, qui, adesso. Eh Cioè, sì, è un sono po'... concetti strani che non, se non gli dai un contesto magari non vogliono dire niente, però. Eh sì, diciamo che questa cosa qui si chiama nel mondo della meditazione, sarebbe la parte che si chiama mindfulness, cioè Certo. essere presenti, no? Essere consapevoli di star vedendo le cose, di star ascoltando le cose, di star pensando delle cose, il che non vuol dire annullare il passato e il futuro, no? Ma essere consapevoli, cioè non sto vivendo nel passato, non sto vivendo nel futuro, sto vivendo nel presente, ma magari sto analizzando dei contesti che non sono qui ed ora, che ci sta tutto. E la montagna secondo me ti aiuta molto in tutto questo, sia se è una breve fuga del weekend, sia se diventa una scelta di vita. Un trasferirsi, però secondo me la montagna non è solo un luogo fisico, è anche un luogo spirituale, un luogo mentale in qualche modo, no? Tante volte è uscito, e diciamo forse può essere un po' banale come riflessione, ma anche un po' la questione del tempo, no? Cioè, quindi il fatto che in città ci sia molto una frenesia, uno stare dietro a uno stile di vita in cui bisogna essere produttivi e appunto rincorrere il tempo, mentre spesso anche insomma, i testimoni che sono venuti a raccontarci della loro esperienza in montagna, quando gli ho chiesto appunto il motivo per cui vanno in montagna, è anche quello che dici tu, quindi il fatto di ritrovare uno spazio dove, che diventa poi uno spazio anche mentale e introspettivo, quindi forse staccandosi da questa realtà appunto frenetica, avere lo spazio e il tempo di, cioè proprio anche intendo vivere il tempo in un modo diverso, quindi non è più scandito dalle ore, ma più da come ti senti, da come ti rapporti con le persone che incontri, dal luogo che vivi e quindi penso che questo faccia sì che ovviamente si possa entrare in una dimensione più introspettiva, più spirituale, più a contatto con se stessi e gli altri. In un modo più vero, più sincero, perché appunto non c'è nessuna anche, so, trattativa o incontro finalizzato a qualcosa, ma è semplicemente il piacere di stare insieme o di stare con se stessi. E quindi poi non so, nel senso che mi sembra anche un po' il tema di oggi, per cui tutti decidono di andare a vivere in campagna, nell'area, cioè evidentemente è una Sì, è una dimensione. bolla Sì. nostra, però magari non è. No, però Cioè, la appunto spinta quello che verso la mi. struttura, la città, questo stile di vita completamente diverso da quello che, anche se lo cerchi, puoi trovare se vivi in montagna, è comunque un grandissimo attrattore ancora. Sì. Cioè, la forza più forte che c'è in questo momento al mondo. A Cioè, livello di evidentemente anche, diciamo, per quanto la dimensione urbana sia stata proprio creata dall'uomo e quindi al contrario, no? Cioè, da che si viveva solo in campagna e in montagna, il mondo dell'agricoltura in ogni caso, si è cercato di, come dire, invece evolversi nell'urbanizzazione, nel creare la città, nello stimolo più, non so, intellettuale, culturale, eccetera, produttivo. E al contrario, penso adesso che siamo arrivati all'esaurimento di questo stile di vita, cioè del capitalismo, ci si proietta continuamente verso un ritorno a questa dimensione, sperando, come forse anche un po' romanticizzando, che sia il modo per ritrovarsi, per avere una vita lenta, per avere una vita piacevole. Mentre, per esempio, mi interesserebbe, visto che ne abbiamo parlato anche con gli altri ospiti, rispetto alle difficoltà e diciamo anche un po' alle paure, come posso dire, ai rischi della montagna, però visti da chi lo fa appunto in questa modalità più di alpinismo, quindi anche di mettere un po' in gioco una sfida con se stessi, però fisica, no? Erano ovviamente legati anche a dei pericoli reali del camminare o fare sport in montagna, mi chiedo. Dal tuo punto di vista, visto che tra l'altro hai anche vissuto in città, quindi hai benissimo in mente la differenza, quali sono le reali difficoltà di fare una vita in montagna? E quindi penso anche, non so, ai servizi, cioè quali sono le difficoltà di base, del vivere insieme, quindi non so, andare a scuola, avere l'ospedale vicino, non so, adesso dico delle cose un po' banali di, basica esigenza per vivere. Beh, allora, sicuramente non c'è la stessa accessibilità che ha una persona che vive in centro città. Non hai la stessa numero di scelte, però c'è da dire che comunque sia siamo in Italia. Cioè, non è che ho fatto la scelta di andare in Ghana, per dire. Che comunque sia lì effettivamente c'è un metti davvero in gioco la... come si dice, i servizi sociali che dà lo Stato. Da noi effettivamente se vuoi fare un figlio ti appoggi a quell'unico ospedale, invece a Milano ne puoi scegliere 4-5, senti i tuoi amici, qual è il migliore, eccetera. Da noi, che ne so, c'è uno che fa l'insegnante di yoga, a Milano ce ne sono 200.000. Però sì, ci sono un po' di difficoltà, anzi ce ne sono parecchie. Però sono di qualità diverse rispetto alla città. Secondo me, per quanto mi riguarda, è un compromesso fin troppo facile da accettare. Cioè, non c'è veramente una lista di pro e contro da dover analizzare. Cioè, i contro, per quanto mi riguarda, sono davvero pochi. Però se dovessi immedesimarmi, non lo so, nel ragazzo di periferia che... vede i suoi compagni di classe che sono invece figli di papà eccetera e vuole diventare anche lui, poter crescere suo figlio e potergli dare 500 euro al mese da spendere come vuole, tanta gente ancora vuole vivere in città, vuole fare la scalata sociale, che ci sta, perché poi comunque sia è comprensibile. Io però non sono così, cioè, secondo me è più una questione personale, è una questione anche di valori. Infatti devo dire che un po' non c'entra niente con la montagna analoga, però per esempio un tema è che mi interessa, tutto analogo, è che penso, no, appunto, noi viviamo più o meno nel centro città, comunque adesso Exalge è anche in un punto abbastanza centrale della città e per dire anche negli altri progetti che facciamo, a parte il passeggio sociale, turbe eccetera, abbiamo l'idea di indagare la vita che è extraurbana, quindi fuori dalla città, e mi chiedo invece quanto sarebbe curioso studiare la vita in periferia, quindi che non è nel centro della città, non è neanche al di fuori, però appunto è un po' quel substrato intorno e... Sì, in verità è urbe totale. Sì, però perché, sai, cioè un po' penso è anche quel è la è una grande parte della megalopoli, non c'è confine, ormai non esiste più, è tutto mangiato. Però per dire, penso anche a livello delle strategie, per dire di adesso insomma, di chi dirige la nostra città, di fare queste costruzioni, cioè sono tantissimi quartieri periferici di Milano in cui stanno facendo queste costruzioni tipo super lussuose, in mezzo al verde, almeno così si dice, piene di servizi, la piscina, il campo da tennis, eccetera, eccetera, un po' per, e la vendono un po' come cosa di dire, ah, se lavori in città comunque sei vicino, sei collegato con la metropolitana, insomma, con i servizi di trasporto, però comunque torni a casa e sei nel verde. Quanto poi di fatto questo sia vero, ma quanto questo, poi non sia una speculazione, non so, è una curiosità così. Penso se proprio sia un bellissimo messaggio che loro usano, no, ma poi così, questo è il perché mio, devono il mio dare dei soldi a qualcuno che si occupa di fare messaggi, ma lo diceva David Harvey davanti ai grattacieli di Chicago, diceva, un giorno guarderemo tutte queste cose e diremo quanto siamo fuori di testa che in questo periodo della storia umana c'era gente talmente ricca che non sapeva dove mettere i propri soldi, ha dovuto costruire queste cose enormi che poi rimanevano vuote e sono pure brutte e non sono servite a niente. Cioè, sono allocazioni di denaro in forma concreta che... No, però per dire, mi incuriosisce anche il fatto che a livello di servizi, cioè lo dico forse un po' per... Non c'è niente studi, di umano, per dire, non c'è, non so, è difficile, esatto, ragionare su umano, queste cose, sì, perché... Sì. Però per dire, ci sono stati tanti architetti che nel Novecento hanno invece fatto delle campagne di ricostruzione della periferia nell'ottica di creare anche delle strutture di case popolari che invece avessero dei servizi diversi, per esempio all'interno delle case c'erano proprio come delle piazze nell'ottica che si creassero degli spazi comuni dove vedersi, fare delle attività insieme piuttosto che avere l'orto, cioè, ed erano strutturate dentro posso dire, il progetto dell'abitazione. Invece adesso, se bisogna costruire una casa in lusso, cioè il servizio di lusso che viene proposto è, non so, ripeto, la piscina, il campo da tennis, cioè non delle cose che creano comunità, ma al contrario mi sembra un po' più di riflesso a questa idea di, come dici tu, di ricchezza, di individualismo, status. Di status sociale, no? E invece penso un'altra degli aspetti, diciamo, di chi decide di andare in montagna è anche questo senso di comunità, no? Cioè questa idea che forse col fatto che si vivono anche delle realtà più piccole si trova più il modo, come dici tu, no? C'è solo un ospedale, c'è solo una maestra di yoga, c'è solo una scuola e quindi di fatto ci si conosce tutti e si fanno delle attività insieme, quindi cioè, forse adesso se vuoi raccontare un po' tu l'immagine di Lavina, però è più facile anche in quel senso lì, quello che dicevo prima, dell'entrare in relazione più umana con le persone. Allora, il vantaggio di essere andato da adulto fuori in un paesino mi ha permesso di relazionarmi con le persone in maniera nuova, in maniera consapevole da adulto, e avendo a che fare con poche persone puoi curare bene tutti questi rapporti. Poi ovviamente se uno ci nasce nel paesino è ovvio che avrà le persone con cui è in simpatia e le persone invece con cui è in antipatia. Però quando vieni da fuori, sei una persona abbastanza consapevole, abbastanza equilibrata, non dico che nessuno deve essere un santo, però ti permette di già relazionarti in maniera sana con le persone, no? E questo in verità aiuta tanto, perché a Milano sì, avevo il mio gruppo di amici stretto e tutto, però comunque sia era tutto un po' macchiato, no? Dal questo anche, ripeto la parola frenesia che è super inflazionata, la usano tutti, però vale anche nei rapporti sociali, no? Uno fa fatica a goderseli, devi programmarli prima in un determinato modo, si fa quella cosa lì, no? Si fa quell'altra cosa là. Invece diciamo che sì, succede anche in campagna questo, però ci sono anche gli incontri casuali, ci sono quando hai bisogno, stai facendo una cosa, ti succede una sfortuna, c'è qualcuno che passa con cui hai comunque sia, lo conosci perché si è in pochi, si ferma, ti chiede come va, ti posso dare una mano, cosa che invece in una città hai un problema, non incontrerai mai per caso una persona che conosci, o comunque è molto raro. Cioè dovresti chiamarla, sto scomodando il mio amico, poi mi dovrò attrezzare per ripagare il favore, qualcosa del genere. Invece in campagna questa cosa qui un po' sussiste meno, magari anche perché le difficoltà sono più comuni, o comunque sia, no, magari no, non è vero che siano più comuni, però Si lavora un po' tutti alle stesse cose, esatto, obiettivi più comuni, qua c'è molta frammentazione e ognuno ha poi il proprio tempo, no? Ritornando al discorso del tempo, esatto, guai se sposti una cosa dall'agenda di qualcuno perché crolla tutta l'agenda, quindi non posso far spazio nell'agenda a meno che non sia un'emergenza, e i contatti per l'emergenza sono tre e gli altri fanculo tutti, no? Invece magari c'è più vicino, c'è una dimensione più che ti permette di stare con più persone, paradossalmente, dove ce ne sono meno. Sì, mi sento di avere molte più relazioni sane adesso rispetto che quando ero giovane, perché a parte il nucleo di amici veramente intimi, tante amicizie però solo, no, per vedersi la sera, solo per fare quella cosa lì o quell'altra cosa là, gli amici di jiu-jitsu, gli amici del teatro, gli amici... E invece lì no, sono semplicemente i tuoi vicini con cui cerchi di coltivare delle relazioni sane e poi ci si dà una mano a vicenda, o tutti insieme si dà una mano alla collettività quando c'è da fare dei lavori, perché anche un'altra cosa secondo me che paradossalmente potrebbe sembrare come una mancanza di servizio, poi invece agisce come servizio sociale, nel senso se c'è un problema che il comune non riesce a risolvere, la cittadinanza, diciamo, si attiva e lo fa insieme, no? che sì, costa magari delle fatiche in più, che poi tra parentesi, in verità, quando mi capita di fare queste cose qui, trovo un'energia dentro che non riesco a trovare quando invece sto facendo un lavoro per me stesso da solo. Mm-hmm. Cioè è proprio, sei maggiormente coinvolto, cioè proprio, almeno io mi sento molto più energetico quando c'è da fare qualcosa di concreto per la comunità, ma anche magari in situazioni di emergenza, poi da noi tante frane, tante situazioni brutte, però sai, sono quella parte di difficoltà sane in qualche modo, no? Sono comunque sia pericolose, non sono belle, cioè non sono da augurare a nessuno, però quando ci sono ti permettono comunque sia di trovare qualcosa di buono. Invece quando succede qualcosa di brutto in città è più difficile trovare quella cosa buona, no? Che scatena. Poi sì, è bello andare in manifestazione in città, anch'io c'ero andato, no? Quando c'è la causa vai in manifestazione, ti gasi, urli, eccetera. Però poi sembra che finisca tutto lì, no? In qualche modo, cioè non hai legato meglio con le persone, non ti sembra effettivamente di aver risolto niente. Invece in campagna quando c'è un problema ci si vede e lo risolvi. E poi, cioè, il giorno dopo quel problema lì non c'è più, o se c'è ancora è migliorato. E tra l'altro vorrei dire al pubblico di stasera che se volete intervenire con delle domande, grazie, potete sentirvi liberi di farlo quando volete. Grazie. No, beh, se, diciamo, ti chiederei questo: se a oggi, diciamo, come ti senti nell'aver fatto la tua scelta, quindi diciamo, se ci sono dei pentimenti che invece delle, cioè, se, insomma, delle gratificazioni rispetto alla scelta che hai fatto, cioè rispetto a quando l'hai fatta all'inizio. Ovviamente ora sono passati tanti anni, quindi un po' una sorta di quadro di evoluzione. Come dicevo prima, non c'è stata una vera scelta, è stato tutto molto graduale. Poi devo dire che fin da piccolo comunque sia avevo già abbastanza analizzato il pentimento come concetto, e l'ho sempre odiato, nel senso che va sempre male, cioè nel senso non c'è molto una cristiano. Situazione... Molto cristiano. Sì, boh, l'avevo analizzato, cioè mi sembrava una roba inutile, no? Se ho fatto una scelta o comunque sia se mi è successo qualcosa e non posso cancellarlo, rimane. Posso solo cercare di imparare qualcosa e fare meglio la prossima volta. Quindi un pentimento, no, zero. Cioè, piuttosto, però questo magari è un lavoro che ho fatto personalmente prima, no? Ci sono persone che invece nel risentimento, nel pentimento, ci vivono alla grande. No, invece per me sarebbe stato insopportabile. Cioè, era già insopportabile da piccolo, anche adesso, cioè è stato anche un modo un po' per giustificare la sofferenza che avevo provato in passato, e cioè non so come dire, l'accettazione della sofferenza, perché era determinante di chi sono io adesso, no? In qualche modo. E anche se la felicità, cioè, è uno stato, so come dire, che non è perpetuo, non è che quando uno raggiunge la felicità è per sempre, magari qualche monaco tu ci riesce. Tu credi nella felicità? Io credo, beh, la felicità come sentimento umano sì, cioè nel senso sono delle reazioni chimiche, poi invece come, diciamo, a livello un po' più spirituale, a livello un po' più sei felice, sì o no, allora lì vuol dire tante cose, no? Cioè nel senso vuol dire fare un bilancio della propria vita, vuol dire come ci si sente. Io sinceramente da quando ho fatto questa scelta sento che il piano di base su cui uno va su e giù, perché su e giù c'è inevitabilmente nella vita, dal mio punto di vista si è alzato, cioè comunque sia faccio su e giù partendo dal livello più alto, che è, boh, magari l'ha dovuto alla serenità che ti porta il contesto, ma secondo me è dovuto anche al fatto che si cresce, no? Se uno cresce in maniera sana, cercando un po' di un automiglioramento personale, no? Una ricerca spirituale, per quanto semplice, non è che vuol dire voler diventare dei santoni, però cercare di diventare una persona migliore di come sia un po' prima, no? Cercare di migliorare. Queste piccole cose ti portano un po' a questa sensazione. Poi ovviamente i giù ci sono anche molto brutti, però hai una consapevolezza, no? Che è un'alternanza di questi momenti. E poi sono sempre stato convinto, cioè sempre non lo so, però anche lì fin da piccolo, che più si va in basso più puoi arrivare in alto, e più vai in alto più si può arrivare in basso. Quindi anche lì, nel momento in cui si vede la parte brutta della vita, cioè sei consapevole che è un momento, e che quel momento lì ti può portare poi ad accettare, a saper vivere meglio, a saper godere di più dei momenti alti. Però stiamo uscendo fuori tema montagna, forse. Alti e bassi, perfetto. Alti e bassi, vedi, c'era. No, beh, diciamo che invece no, nei termini in cui, ripeto, per me era interessante il dialogo con te per capire, cioè avere la prospettiva di qualcuno che vive in montagna, e quindi cosa significa nel tuo quotidiano il viverti la montagna, per cui diciamo le sfide, i piaceri che sono diversi da chi se li vive, ripeto, per sport o per, come posso dire, divertimento. Certo. E per cui se la tua dimensione anche di felicità introspettiva l'hai realizzata proprio in questa dimensione della montagna, è significativo per quello che dicevamo prima, cioè evidentemente anche effettivamente... Insomma, io lancerei proprio uno slogan, cioè ci sono, come dicevamo prima, tante persone che fanno il percorso opposto perché c'è un gigantesco attrattore, anche un po' secondo me menzognero, perché... ha bisogno di persone per nutrirsi, diciamo. Si sta bene in montagna, no? Cioè, è giusto sì. Dirlo spesso, secondo me. Tutti in... Poi, non secondo so, se me ci fosse qualcuno magari di più attento alla questione dei servizi, magari, piuttosto che ad altre delle difficoltà che potrebbero esserci in un luogo più un po' più isolato, che poi alla fine appunto è in Italia, non è in Ruanda. Ma sì, poi secondo me è molto soggettivo. Potrebbe fare qualche osservazione. Sì, è soggettivo, però è così come è soggettivo che in città c'è lo smog. Non è così soggettivo, cioè... Sì, no, in montagna si sta meglio. Può andarti appunto bene lo smog, però lo smog c'è. Esatto, però poi è un bilancio personale. Ci sono persone che pensano, perché poi, secondo me, poi alla fine c'è una dimensione umana che è inevitabile, no? Che è quella biologica, è quella genetica, che siamo delle bestie. E c'è un fattore psicologico, no? Il fattore psicologico è molto soggettivo, cioè nel senso ci sono persone che se dalla periferia le porti in campagna si sentono di aver perso qualcosa, no? Si stavano avvicinando al grande sogno e gli è tolto. Invece in centro città effettivamente c'è questa come si dice, sorgenza, questa nascita di una nuova volontà. Di invece riscoprire. Sì, secondo me è legata anche a una ridimensionamento dei valori, cioè in fondo penso che. Insomma, le contraddizioni adesso sono chiare, comunque sia. Per le persone che però sono agiate, tipo noi del centro città. Invece la persona che soffre tutti i giorni per guadagnare. Sarebbe interessante un discorso sulla periferia, per capire invece l'esigenza di chi vive in periferia. Però penso che sia ormai un po', cioè siamo veramente arrivati un po' a una crisi dei valori, cioè non adesso, oggi nel 2026, ma già da un po', tale per cui penso che si stia un po' rimettendo in discussione anche cosa vuol dire l'agio, cioè quindi quanto sia necessario per ciascuno per stare veramente bene, e quindi magari imparare appunto non a... non so come dire, penso a mia nonna che ha vissuto la guerra, dopo la guerra c'è stato il boom economico perché non avevano niente e quindi tutto era... una rinascita, cioè in quello ci si era stati così male, stato il peggior momento della storia, che la rinascita del boom economico era ovviamente il cercare di stare bene, quindi so, io penso anche alle cene che facevo da lei, i pranzi in cui c'era l'ansia che dovevano tutti mangiare tantissimo, perché immagino fosse un suo trauma di mancanza di cibo, o sempre avere tanto, cioè come dire, un po' questa idea di, sì, di consumo, sì, poi noi nel senso... un po' l'ipnosi di massa, cioè sì, può esatto, essere no? Che qualcuno e quindi... abbia subito qualche trauma e che però, cioè dallo stare bene all'abusare, no, invece adesso diventa un'ipnosi. Sì, cioè. Quindi adesso penso che ci sia un abuso in questo senso e quindi non so, per stare bene devi avere... la borsa di Chiara Ferragni e la giacca di Guess, non lo so. Che poi paradossalmente puoi avere molto di più in un contesto come magari quello di Lavina di Rocco. Che, esatto, invece che in questo incendevo. Perché... cioè, invece forse c'è una ricerca di, come dire, cercare il benessere in altro, quindi nei rapporti più veri, nell'avere magari meno a livello di status, ma... più a livello spirituale, come dici tu, cioè più un arricchimento, cioè, per la persona, buono. No? Sì, una esatto. Genuinità nelle cose, nella serenità propria, il cibo, la salute che un po' viene anche da sola seguendo uno stile di vita diverso, vivendo in un posto diverso. Ma anche i contatti sociali, assolutamente. La costruzione di un lavoro sensato. A me è venuto in mente una cosa, nel senso che il fatto di avere meno scelta, cioè nel senso che paradossalmente avere meno scelta ti rasserena in qualche modo, no? Cioè nel senso non devo scegliere che cosa mangiare stasera, perché le cose che ho in casa sono quelle lì. Non è che dov'è che vado a mangiare, chi chiamo stasera per uscire, che poi in realtà non è che hai meno scelte, perché le scelte forse ne hai anche di più vivendo in campagna, perché puoi fare mille cose diverse, hai tutto un sacco di spazio per te, però quelle scelte che hai in città, tutte quelle scelte lì vengono a mancare e in qualche modo ti togli una parte di stress, no? Ti togli una parte di... cosa faccio? Qual è la scelta giusta? Qual è la scelta migliore? Perché sono due scelte diverse, cioè una è una scelta attiva e l'altra è una scelta passiva. Cioè da un lato scegli cosa fare, dall'altro scegli da un elenco esatto. di cose da fare magari, no? Esatto. Cioè è come disegnare su una tela bianca piuttosto che scegliere un elenco puntato appunto o dentro una griglia. Eh sì, effettivamente poi in città, cioè almeno io mi sentivo molto costretto, cioè sui binari in qualche modo, no? Dovevi fare quello, poi scegliere l'università, per tante persone per me è stato facile, nel senso che potevo scegliere quello che volevo e bene o male lo sapevo, però vedo che tante persone nella scelta dell'università cioè, hanno più contribuito i genitori che loro stessi, quindi in qualche modo sì, la miriade delle scelte... E poi alla fine è un'illusione in qualche modo, no? Sì, appunto una revisione di quello che è scegliere, cioè nel senso da una parte ben venga, lo dico anche dal mio privilegio, di poter avere tanta scelta e su tante cose sono convinta che sia anche una cosa bella, non so, penso poter viaggiare, vedere mondi diversi, non so, avere tanti stimoli culturali. Quindi certamente su un certo fronte è ovviamente positivo, penso. Però dall'altro puoi farlo senza 10 sì, compagnie che, come low dire, cost è che, diverse. No, questo, cioè quello che penso è, io comunque parlo dalla posizione di una persona che vive in città e che ne vive tanti privilegi, e quindi certo che per me fare la scelta magari di decidere di vivere in montagna, in campagna, insomma fuori dalla città, in questo momento della mia vita sarebbe comunque con la consapevolezza appunto di aver vissuto, di avere un trascorso comunque diverso, di aver un bagaglio di informazioni e di esperienze diverso da chi è nato, non so, a Lavina. E quindi capisco quello che dici tu dell'esigenza a un certo punto magari di sentire che quello poi diventi un posto un po' costrittivo e quindi che magari senti l'esigenza di non essere realizzata o realizzato, per cui vuoi uscire e scoprire altro, cioè ti stupiresti no, cioè non per tutti sì. Però dico, lui prima giustamente diceva anche sai, a un certo punto magari c'è chi anche lascia quel posto perché sente che non gli dà sufficienza o vuole scoprire altro, o appunto magari per motivi anche non necessariamente positivi. Ma però chi nasce in campagna va via dalla campagna, cerca di città. Capito. Lo capisco, perché sì, posso capire che nel mondo di non oggi tutti. No, ma dico, capisco che possa esistere anche questa esigenza se tu hai vissuto solo un certo tipo di vita. Poi non è detto che questo vuol dire che non ritorni, non lo so, però posso capire che io sono qui a fare il discorso sulla montagna, che è bella, non vedo l'ora di mollare la città, però per 30 anni ho vissuto in città e ne ho goduto dei privilegi, cioè, quindi non lo so, cioè, penso anche a questa cosa, come, non la do per scontata, ecco, semplicemente penso. Però comunque sono in una città diversa. Sì. E allo stesso tempo, se la montagna o la campagna avessero gli stessi aspetti di... Ecco, su quello non lo so, cioè penso di servizi, dici? Non solo di servizi, più che altro di universalità, di permanenza di tutte le cose in un posto, per forza, tutto subito, sempre, qualsiasi cosa, non sarebbe più quello che è. Sì. Perché no, per questo dico, non cambierei troppo la... Sogno una città diversa, ma non so se sogno una montagna o una campagna diversa, cioè la sogno più come, cioè per dire, non so, da donna penso, se vado a vivere in montagna, resto incinta e devo partorire, ma il mio ospedale a 2 ore di macchina, è una cosa che un po' mi metterebbe l'ansia, cioè sono delle cose, cioè non lo so, penso forse è più su una questione di servizi che mi offre lo stare sul cucuzzolo della montagna, poi magari è una cosa a cui mi abituerei, non ho idea. Oh, io però, non so niente, però magari bastano due sono delle cose che nella penso. Pinozza degli stracci puliti. No, certo, però il rischio c'è. No, adesso. No, però insomma, sì, tutto quello che sì, ci sta. Un sacco di donne morire. Non lo so, però magari basta un furgoncino con l'attrezzatura che viene a domicilio, No, a proposito di parti, eccetera, da noi ci sono tantissimi stranieri e mi stavo confrontando con questi olandesi e gli dicevo che in Italia la strada normale è che vai in ospedale e puoi fare anche i parti in casa se vuoi, però costano abbastanza, no? Devi tirare fuori qualche millino, no? Invece mi hanno detto, ma come? In Olanda è l'opposto. Cioè, tu devi partorire in casa, poi se vuoi farlo preventivamente in ospedale devi pagare i millini. Poi ovviamente se c'è un'emergenza vai in ospedale. No, certo, ma perché loro non hanno la sanità pubblica, invece uno dei... Come no? In Olanda? Credo, sei sicuro? Sì. Secondo me è mixata come in Inghilterra. No, che è metà e metà, cioè certe cose... Come gli inglesi, che ci sono certi servizi che sono gratuiti e invece certe cose no, ma proprio lo Stato, come dire, a livello economico ti offre come l'educazione, cioè ti offrono delle cose, non è come negli Stati Uniti che è tutto privatizzato, ma secondo me molti paesi europei hanno questa economia mixata per cui lo Stato ti offre delle cose basiche e invece altre cose... Ma comunque non è che partivano in casa da soli, venivano i medici, l'ostetrica, certo, eccetera, venivano tutti. Però l'opzione più economica era quello farlo in casa, che secondo me ha anche senso, cioè senso, se non sono previste complicazioni parti in casa e poi vabbè, per me è il mio incubo, quindi forse sono un po' di parte. Però cosa, il parto? Il parto in casa? Dal parto proprio, cioè penso che morirò, quindi vorrei essere assistita da tante persone. Sì, non in casa, in un posto sicuro. Beh, però sicuro. Non ti preoccupare. No, poi vabbè, un po' senso che non, cioè, sono discorsi un po' sensibili, sia per il periodo storico, perché da uomini parlarne non è che proprio ma è massimo. No, però di quello penso, proprio anche la scuola, per esempio. Il fatto che la medicina sia, non so, centralizzata in grandi strutture, che siano sempre meno, che siano infiltrate da qualsiasi tipo di mafia e da zero qualifiche. Cioè, una volta c'erano un sacco di ambulatori e... una volta, quando ancora non c'era la medicina moderna. 40 anni fa. 40 anni fa c'erano un sacco di ambulatori, poliambulatori, tanti ospedali in più, anche in città. Cioè, sì, sono diminuiti i servizi, ci sono delle grandi strutture, ma... No, non so se, però insomma, forse sulla sanità mi sento di dire, per quanto problematica, sia un lusso la nostra, cioè abbiamo una è un gran lusso, ma comunque cioè oltre a essere pubblica è anche di ottima qualità, cioè quindi c'è un... però non ha niente a che vedere con quello che era anni fa, in cui c'erano, cioè, io in Olanda non parto di lei, magari le stesse strutture ma per molte meno persone. Adesso è tutto sovraffollato, okay, sì. Costa di più, è tutto privatizzato, okay. Comunque perché la gente non paga le tasse in Italia, quindi niente, non funziona. So se è proprio per quello, non paga le tasse perché vede che le proprie tasse vanno a finire nella tasca di qualcuno e non nei servizi. Cioè, un gatto, le tasse in Italia sono i mafiosi per riciclare i soldi, Io esatto, pago, cioè, le tasse, raga, anche un botto le pago, ricicli i soldi. Allora, ci sono dei dissentori nel pubblico che adesso chiederemo gentilmente di lasciare la sala. No, la volta censura non fa vedere. Chiudiamo la allora. Dai, ma diceci qualcosa voi ospiti, chiedete qualcosa a Rocco. Chiedo agli Edoardi in sala di alzare la mano. Se no, vuoi spiegarci un po' della tua passione per Miyazaki e raccontarci che analogie ci vedi col Dio Bestia e tutte le cose di cui abbiamo parlato questa sera? Direi che Miyazaki, che è un come si dice, un regista, sceneggiatore di film d'animazione giapponese, ha come centralità, diciamo, dei suoi punti il rapporto uomo-natura, e di conseguenza la montagna, intesa anche come semplice paesaggio naturale, ma spesso è proprio la montagna, è fondamentale sia come luogo sacro, sia come entità, sia come entità a sé stante. E no, per me è molto importante, è stato, perché mi è servito a fare quelle piccole realizzazioni, no? Quei piccoli insight che si hanno nel corso della vita, che ti aiutano poi a vivere meglio con se stessi, no? E quindi sì, il Dio Bestia, il grandissimo Dio Bestia, è il, non so, il dio della dualità in qualche modo, no? Che giorno e notte a forme diverse, dalla vita come la toglie, è più o meno la montagna in sé, cioè nel senso, puoi essere la persona che più ama la montagna al mondo, però se cadi giù dalla scarpata, sei caduto giù dalla scarpata, non perché hai messo male il piede, ma perché la roccia che era sotto il piede improvvisamente scende tutto, ha voluto ucciderti, scende giù tutto il versante. Un po', secondo me, bisogna anche, cioè, secondo me la contraddizione della città anche un po' nasce da questa volontà dell'uomo di dover essere il capo supremo dell'universo, no? Questa mania di controllo ossessiva, che poi si trasmette anche sugli altri esseri umani, cioè proprio, secondo me la città è proprio una manifestazione delle contraddizioni dell'umano, cioè nel senso, l'avidità, cioè tutte le cose brutte dell'essere umano hanno portato alla creazione di questo ambiente paranaturale che è la città, cioè perché comunque sia un ambiente naturale, perché fa parte della fisica, cioè fa parte dell'universo, però in qualche modo è completamente decontestualizzato, è puramente frutto della mente dell'umano. E c'è stato, secondo me, un momento di stacco, non so quando, nella storia, in cui l'essere umano lavorava quasi come custode della natura, no? Costruiva in maniera, cercando di assecondare la natura, cioè quindi cercando di proteggersi da essa, costruendo la capanna, allestendo la grotta, facendo i muretti a secco. Quindi cercavi di arginare i problemi della natura, però allo stesso tempo cercavi di migliorarla, perché comunque sia la natura voleva dire avere anche un buon raccolto. Quindi l'essere umano... soluzioni integrate e non a contrasto. Esatto, e quindi l'essere umano era un custode della natura, in qualche modo, no? Spesso la vedeva come era un dio che dovevi sia pagare che sia proteggerti, no? Avevi paura di quel dio. Industriale. Probabilmente sì. Cioè, non, che non cazzo gliel'ha fatto fare a tutti quei contadini di andare nella periferia di Londra sottopagati a respirare carbone? Perché prima i soldi non c'erano, praticamente. Non pagati, perché erano pagati pochissimo. Far lavorare anche i bambini, dormire male. È la sovrappopolazione l'ha fatto. È disperazione. Tutto colpa della patata. È la patata. Tutto colpa della patata. Perché quando è arrivata la patata... No, ma nel senso la patata, il tubero? Vabbè, certo. Il tubero? È peggio, sì, è peggio. No, perché cioè, nel senso, l'alimentazione di massa, la rivoluzione alimentare ha portato una sovrappopolazione che era ben vista dalle monarchie, dai regimi vari che c'erano in giro per il mondo, perché gli dava più manovalanza, e poi da lì la più manovalanza è diventata che c'avevo meno cibo, perché ovviamente quando fai tutto secondo i dettami della nuove leggi agrotecniche ti ritrovi con la grande carestia, le grandi situazioni di questo genere, e poi alla fine nasce la seconda rivoluzione industriale, eccetera. La gente prima guadagnava magari un soldo al mese, e gli dicono: no, adesso ti do un soldo alla settimana, cambia vita, vieni a lavorare nell'industria. Ma tutto costerà un soldo in più. Ma loro non l'avevano capito, perché non c'era la scuola, loro non erano abituati al soldo, che cazzo, con un soldo potevo comprarmi il paio di scarpe, prima non c'avevo le scarpe. Sì, no? Poi però quando si alzava il prezzo del pane, Manzoni insegna. Esatto, cioè, quindi c'è tutto questo... Io sono convinto che un po' i poteri forti esistano in qualche modo, cioè, nel senso, c'è una classe dirigente che è consapevole di questi meccanismi, è consapevole di come si muovono un po' le masse e cerca di direzionare le cose a loro favore. Non c'è bisogno di essere convinti. No, ma è così, certo. E quindi, secondo me, sì, cioè, un po' la montagna rappresenta l'ultimo luogo felice, però, cioè, scappo in montagna o rimango in città per combattere, per far vedere, perché sennò poi alla fine corromperanno anche la montagna. No, la montagna però è anche simbolo di resistenza, no? Cioè, da quando è nata l'umanità, da quando c'è l'umanità, è il luogo in cui ci si ritira contro eventuali persecuzioni, per ricreare comunità, per creare una resistenza rispetto a quello che succede in pianura, banalmente, perché ovviamente i grandi sistemi o grandi oppressori, se, che voglia c'hanno di andare in montagna, cioè razziano la pianura, razziano le città, è uguale, puoi estrarre molto di più da però sotto mi sento di dire una cosa, anche per esperienza che abbiamo avuto a Ravina, in realtà la montagna è più fascista che resistente. È vero, sono un sacco di fascisti proprio a Ravina. Cioè, sono i fascisti destra, della resistenza di destra. però raga, sono fascisti, però è un fascismo diverso, No, allora, cioè, non è... posso dar ragione su un certo punto di vista, nel senso che, per dire, è stato interessante per noi, abbiamo fatto questa resistenza comunque a Pogallo, è stata meta del nostro passaggio sociale per un po', la Val Grande, e c'era questa dimensione comunitaria in cui convivevano comunisti e fascisti, cioè c'era una tizia con un tatuaggio con scritto Viva il Duce, quindi proprio fascista. Eppure, nonostante le loro divergenze politiche, a livello di comunità assolutamente convivevano e avevano un modo di stare insieme anche molto, come posso dire, vero, cioè appunto un po' quello che raccontavamo fino ad adesso. Però, per esempio, anche quando siamo venuti appunto a Ravina, quando anche abbiamo intervistato un po' delle persone che c'erano, cioè hanno delle posizioni politiche molto conservatrici di destra, cioè quindi... Però la resistenza non è di sinistra, cioè secondo me è riduttivo, peraltro, sì, per sì, ma secondo me è riduttivo dire la resistenza è sinistra, lì sono fascisti. No, no, però cioè, la resistenza è un'altra cosa, fatto, per esempio... cioè destra sinistra per me ormai è superato. No, però per esempio, non so, questa signora che ho intervistato a un certo punto mi ha fatto tutto anche un discorso di un po' razzista, cioè contro persone che vengono a casa sua, ma non, cioè finché sono italiane va bene e mi portano anche, come dire, in qualche modo turismo e questo fa bene alla mia attività, però se sono straniere, anzi di un certo tipo di stranieri, invece, cioè non so, aveva proprio anche sono anche i figli della propaganda, cioè no no, per carità, però intendo dire noi abbiamo una situazione privilegiata in questo, cioè nel senso che abbiamo avuto modo di studiare, guardare, certo, farci un'idea. È invece quando intendevo. Tu lavori tutti i giorni in maniera fisica eccetera, poi ti guardi solo che ne so un'ora Rete 4, poi ovviamente certo, pensi che la... no no eh? Però per esempio esatto. Adesso sì, vabbè, c'è una spinta un po' mondiale verso la destra, però secondo me adesso secondo me è un argomento molto riduttivo. Non è per dire che tutte le comunità di montagna sono la resistenza, ma la resistenza è andata in montagna per ripartire, cioè in tutto l'arco da nord a sud devi trovare un posto in cui sai che puoi avere magari più difficoltà a sopravvivere, ma che conosci, che puoi iniziare a conoscere prima di quello con cui, contro cui stai facendo la resistenza. Sì, sì, cioè, no, cioè, è una capito, cosa più, no, una no, cosa no, più ho capito cosa vuoi dire. Spirituale che politica, ecco. No, no, certo. Cioè, io lo dicevo più anche legato al discorso di prima, di magari poi a un certo punto avere l'esigenza di scoprire quello che c'è fuori, no? Quindi penso, non ne ho idea perché non sono né una sociologa né nessuno, però. Cioè magari vivere anche in una dimensione in cui conosci solo, non so, 10 persone per 30 anni di vita, poi posso immaginare che conoscere persone che, non so, che l'approccio al conoscere qualcosa che sta fuori dalla tua quotidianità non necessariamente sia facile o sempre accolto nel migliore dei modi, quindi non lo so, però penso... E poi anche lì dipende. Cioè, non lo so, infatti, diciamo, credo personalmente... Se adesso immagino il mio futuro vorrei non vivere in città, però per esempio se mi immagino di avere delle figlie o dei figli, non so se completamente gli negherei l'accesso alla città, perché penso che comunque su certi aspetti di esperienze, incontri, stimoli, la città abbia anche del positivo, comunque dell'interessante. Su questo ho fatto un po' una riflessione io già. Nel senso, una riflessione mia personale ovviamente, che secondo me nel contesto di crescita, diciamo, fino alla maggiore età, la campagna in verità offre, secondo me, più cose positive, nel senso che c'è un controllo parentale che è maggiore, ma se fatto in maniera sana ovviamente, cioè sì, che deve essere fatto in maniera sana, però in campagna, esatto, cioè nel senso hai internet comunque, assolutamente, però c'è, tutti sanno chi sono tutti, quindi comunque sia, e anche il bambino, cioè non ha, e anche se il bambino è in una situazione di pericolo il vicino passa e lo salva, non so come dire, e poi c'è, una roba di responsabilità e lavoro, che secondo me in campagna è maggiore, cioè responsabilizzi molto di più, cioè gli fai capire molto di più quanto effettivamente lavoro porta alla soddisfazione, no? Cioè lavoro sano, anche lì si parla sempre. E poi, e sicuramente se in un ambiente, cioè mangi meglio perché ti mangi le cose che coltivi tu, e poi quando raggiungi la maggiore età, sperando che se vuole fare un'università, allora l'ambiente cittadino è perfetto. Che cioè, poi se città è città, certo, assolutamente. Servizio in montagna. Cioè se io mi devo immaginare la mia vita, il periodo più felice che ho avuto in città è stato l'università, perché ero già adulto, ho potuto ricominciare le relazioni sociali come... ne volevo fare io, e finalmente studiavo quello che mi piaceva, non so perché, però è un bel momento, hai mille incontri diversi, sia con ragazzi che con professori stimolanti, e quindi allora sì, lì è giusto, se poi devi avere anche le disponibilità, cioè o tuo figlio è un genio e quindi prende la borsa di studio dove vuole, oppure se vuoi mandarlo a studiare in città devi tirare fuori i soldi, non c'è... Certo. Che, cioè, per esempio, dove siamo io e dal lago, che lì c'è tutta la montagna, così, e conosciamo veramente tanti ragazzi, nessuno ha fatto l'università né ha finito il liceo. Cioè, sì, forse ho finito il liceo tipo al quarto anno, però... Tecnici, non liceo. Esatto, perché tecnici. Però sono figli di non persone laureate. Cioè, lavoratori a 17 anni, tutti, cioè, con comunque posizioni di destra, cioè già da giovanissimi. E cioè sì, c'è la comunità nel senso che scendi in paese e tutti ti si conoscono, tutti ti aiutano anche, però certe volte un po', cioè vedendo così io ho pensato, ho fatto anche questa riflessione, ho pensato io non penso di crescere il mio figlio fuori dalla città. Però al di là del contesto politico, io che magari farei è, come Rocco. È contestuale, locale, no? E anche storico di quel luogo, piuttosto che dell'educazione che danno anche le istituzioni lì e le famiglie lì. Anch'io non vedevo l'ora di smettere di studiare le stesse cose che studiavo dalla prima elementare. No, sì, per tanti sarebbe positivo. Cioè, nel senso, l'istituzione scolastica che abbiamo fa acqua da tutte le parti, eh. È un modello, no, perfetto, come da cent'anni. Noi andiamo tutti all'università e non c'è nessuno che non no, ci va. Certo. È di cent'anni fa, comunque, e viene peggiorato in continuazione, nel senso, non si è liberi, non ci si sente veramente liberi, come ha appena detto Rocco, finché non si arriva all'università. Però hai anche un po' quel timore di ci arrivo e se poi è tutto come prima, sono, cioè, che palle, ho comunque appena pagato, non so, 1200 euro di retta. Sì, certo. Non so, è ma tutto secondo me, per però tornare al discorso... Cioè, secondo me è una via di mezzo, cioè anch'io l'avrei pensata che nella fase più di gioventù avere anche quel tipo di idea di stare insieme, di comunità... di esperienza con la natura. Cioè 18 anni comunque sei già grande. Sì, sei già grande. Magari da quando sei bambino. E, beh, secondo me da questo punto di vista, cioè, ti do ragione, nel senso che i paesini di montagna tendenzialmente non sono popolati da persone che hanno fatto il mio percorso, per dire, no? Che hanno vissuto in città, hanno vissuto le contraddizioni della città e fanno una scelta di andarsene. E sono popolati da persone che vivono in quel posto lì da mille anni, che si spaccano la schiena tutti i giorni e non hanno mai avuto, pochi sono laureati, e quindi subiscono molto la propaganda, il populismo, no? Poi ci sono alcune situazioni particolari, tipo Lavina ha un sacco di laureati, penso che in proporzione agli abitanti ne abbia più che Milano, cioè sono davvero quasi tutti laureati. E infatti sono molto più di sinistra Lavina, però sono in 50. Rezzo, che fa comune, sono 350 e sono tutti di destra e ci sono un laureato, quello che fa il banchiere, basta. E, però per dire che effettivamente fare questa scelta sì, però bisogna andare, secondo me, in una comunità, cioè nel senso, se davvero... cioè ci fosse un nucleo, però anche se nascesse un nucleo in cui le persone dicono andiamo via da Milano e andiamo tutti lì per fare il nostro ecovillaggio felice, per dire, poi alla fine qualcosa si perderebbe, magari diventerebbe di interesse per qualcun altro e quindi comincerebbe la speculazione dietro, cioè ci sono dei rischi, io non lo so, da quel punto di vista lì effettivamente è difficile, però secondo me poi se uno ama proprio figlio e lo cresce veramente amandolo, standoci dietro nei primi anni di vita, poi è lui stesso che capisce che i ragazzini che fanno gli scemi, che si ammazzano, che vanno a fare i maranzi in giro non è quello che vogliono essere, non so come dire. Se invece magari vivono in un contesto familiare difficile, in un contesto sociale difficile, allora sì che la violenza diventa la via d'uscita, no? Sì, dipende tutto da tanti fattori. Purtroppo. Loro vivono in montagna, ma non vivono la montagna. Ci sono anche tanti esempi positivi, cioè, come di comunità positive, felici, certo, o che comunque investono nella collettività. E anche nonostante tutto, quelle magari più un po' aggressive, protettive e autoritarie hanno comunque una sorta di senso di collettività. Sì, no. Invece magari fuori dal contesto, dentro al contesto urbano invece c'è addirittura un'atomizzazione, quindi non c'è più neanche quello, quindi c'è solo la competizione, l'aggressività, l'individualismo. Sì, cioè magari non sono proprio neanche da soppesare sulla stessa bilancia, no? Autoritarismo e individualismo, però insomma non sono carine tutte e due. Vabbè, come sempre ci sono lati positivi e no in tutte le scelte che si fanno. Sì, però insomma, io se dovessi, nei miei sogni, la mia comunità è montana. È anche la mia. E nei miei sogni, però, la città la vivo nell'ottica di apportare un cambiamento. Di apportare, sì, un cambiamento. Sono d'accordo. Che la renda non quello che è, ma quello più accessibile. Che sia più naturale, più a dimensione di uomo, di comunità, più solidale, più vivibile in termini salutistici, culturali, spirituali. Sì. Su queste meravigliose parole, a meno che non ci siano altre domande. Beh, allora, intanto dobbiamo chiedere a Rocco che libro ci consiglia. Ah, è vero, sì. Che libro vi consiglio? Sì, potrebbe, visto che oggi il format è completamente diverso, potresti anche consigliarci un film. Consiglio un film, parlando di Miyazaki. Tutta la filmografia di Miyazaki. Tutta la filmografia di Miyazaki, assolutamente sì. Se dovete partire da qualcosa, vi consiglio il mio preferito, quello dove c'è il dio bestia, Princess Mononoke. C'è anche su Netflix, quindi... Dai, tu l'hai già visto? No. Mai abbiamo visto? Qualcosa da fare questo weekend. Dai, me lo consiglio vivamente, molto molto bello, toccante. Ok, adesso andiamo a passeggiare sul Resegone a fine gennaio. Sì. Cos'altro diciamo di solito? Ah, il prossimo mese invece, esatto, parleremo di fiumi all'interno del Festival Lento. Esatto. Di anche come vengono tutti arginati in natura. Regimentati per lo sfruttamento. Quindi il 15 di marzo. Il 15 ci febbraio. Ci rivediamo il 15... sì, scusate, il 15 di febbraio, scusate. E ci rivediamo con la montagna analoga all'interno del Festival Lento, proprio per prenderci uno spazio lento, di sì, lentezza e di scorreggevole. Scorrevole. Ah. E poi abbiamo l'8 marzo una montagna analoga tutta femminista. Sì. Ci stiamo provando a organizzare. Ci proviamo, che bello. Sai cosa sarebbe fighissimo? Che andassimo invece a fare proprio una passeggiata femminista con le montanare della Resistenza. Non possiamo fare. Dobbiamo ancora organizzarlo. Io. Bravi, io, bella, grazie Exalge, the place to be. Sempre e comunque, sempre. Vuoi per sempre. Vuoi raccontarci qualcosa che non ti abbiamo chiesto? No, venitemi. Com'è distrutto il venitemi a trovare tutti. Sì. Coordinate. No, cioè risolviamo la questione Valentini, perché io, cioè, aspetto di acquistartelo. Che, come, e come di sei sfondato il serbatoio? Allora, quando l'ho comprato, che era tutto bello verniciato rosso, il metasotto era tutto arrugginito. Quando sono tornato dopo le vacanze, che gli ho tolto il telo da sopra, eccetera, ho detto lo devo portare in campagna, vediamo se si accende. Si accende al primo colpo, ho detto miracolo, bello. Vado su, lo parcheggio bello al sole, perché la vina è sempre all'ombra, e probabilmente un po' di stress meccanico dovuto alla dilatazione termica, non so che cosa, ha fatto crepare l'ultimo pezzettino che mancava al serbatoio e usciva una goccia alla volta. Ah, dai. Allora ho svuotato il serbatoio, così poi ho cominciato a scartavetrare per togliere la vernice, per metterci qualcosa, ho trovato questa pasta bicomponente eccetera, e solo che scartavetrando si sono formati dei buchi enormi e quindi alla fine ho dovuto fare una piastra, un lavoro decente. E scusa, dentro non devi dare qualcosa perché non continua ad arrugginirsi? No, il gasolio non lo fa arrugginire. Però il gasolio corrode qualsiasi cosa che non è metallo, praticamente. Quindi è partita da fuori? Era partita da fuori e poi... Esatto. Probabilmente ci sono anche altri punti in cui c'è solo la vernice e un po' di ruggine che tiene. Infatti trasuda un po' il serbatoio. Ah, ecco. Sarebbe tutto da cambiare, però ho fatto questa piccola operazione. Adesso speriamo si risolva. E... Ma io avevo una domanda nel tuo proprio. Sì. No. Ok, no, no. No, volevo chiederti se quando hai scelto di andare su. Delle voraci. Giù, anzi. Cioè, sei andato. Cioè, avevi già dei legami? Cioè, avevi già delle radici lì? O se hai fatto una scelta così un po' alla cieca? Allora, non sono andato lì alla cieca, nel senso che è stata una casualità, perché il nonno di un mio carissimo amico d'infanzia era originario di lì, c'ero già stato un'estate e poi mentre facevo l'università di agraria avevo mille progetti in mente, una certa propongo a questo mio amico qua, ma al posto di andare in vacanza ci mettiamo due soldi, proviamo a piantare lo zafferano e poi pian piano è nato tutto, i contadini hanno visto che avevo recuperato un terreno, allora hanno detto ma allora perché non ti recuperi anche quello, perché non tieni le mie olive che io le devo abbandonare perché sono vecchio. E da lì è partito tutto. Ciao! Beh, tu? Sei live su Montagna Analoga? No. Se ne va tipo Homer camminando lì dietro. Vai a assaporare tutti i posti più improbabili. Ciao! Va bene, ragazze, ragazzi, grazie dell'ascolto, applauso da tutti! Grazie mille! E alla prossima puntata!